L'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, raccontato da Italo Calvino. Musiche di Bruno Nicolai. Regia di Nanni De Stefani. Quinta puntata. L'isola di Alcina. Lettura poetica di Giorgio Albertazzi. Narratore Gianni Bonagura. Duro destino è l'avere un destino. L'uomo predestinato avanza e i suoi passi non possono portarlo che là, al punto d'arrivo che le stelle hanno fissato per lui, o ai successivi punti d'arrivo, fausti e infausti, nel caso che gli astri gli abbiano decretato, come a Ruggero, un matrimonio d'amore, una discendenza gloriosa, eppure, ahimè, una fine prematura. Ma tra il punto in cui egli si trova ora e l'adempiersi del destino possono succedere tante mai vicende, tanti ostacoli frapporsi, tante volontà entrare in campo a contrastare il volere degli astri. La strada che il predestinato deve percorrere può essere non una linea retta, ma un interminabile labirinto. Sappiamo bene che tutti gli ostacoli saranno vinti, che tutte le volontà estranee saranno sconfitte, ma ci resta il dubbio se ciò che veramente conta sia il lontano punto d'arrivo, il traguardo finale fissato dalle stelle, oppure siano il labirinto interminabile, gli ostacoli, gli errori, le peripezie che danno forma all'esistenza. Così Ruggero. Le profezie del mago Merlino non lasciano adito a dubbi. Sposerà Bradamante perché dalle loro nozze possa prendere origine la dinastia degli Estensi, duchi di Ferrara. E perché, conseguenza ancora più importante, un oscuro funzionario di casa d'Este, Ludovico Ariosto, possa, a gloria dei suoi signori e a suo proprio diletto, scrivere l'Orlando Furioso. Questo avvenire è sicuro, incontrovertibile, lampante. Ruggero, qualsiasi decisione prenda o non prenda, qualsiasi imprevisto lo trattenga o lo sproni, finirà per abiurare la fede maomettana, ricevere il battesimo, approdare tra le braccia amorose e salde della guerriera Bradamante. Ruggero incarna un destino perentorio e inflessibile, ma sembra non aver fretta. Due forze, o meglio due concentrazioni di forze, se lo contendono. Da una parte la sua amata Bradamante, ostinata e instancabile, con l'aiuto della maga Melissa, profetessa delle future glorie ferraresi. Dall'altra il suo re Agramante, che non vuol perdere uno dei più validi campioni dell'esercito saraceno, e il suo tutore Atlante, il mago che nell'intento di smentire l'oroscopo astrale aveva invano educato il suo pupillo lontano dalle armi, nascondendolo bambino sui monti della Mauritania. Sarà Bradamante a vincere, è certo, ma per ora la disciplina militare saracena e l'affetto protettivo di Atlante hanno su Ruggero almeno altrettanto ascendente che il richiamo dell'amore per la bella nemica. Bradamante ha appena liberato Ruggero dal castello d'Atlante. Ruggero monta sull'ippogrifo e l'ippogrifo vola via con Ruggero in sella. Il suo destino è essere ogni volta liberato oppure essere ogni volta rapito? Ruggero non è certo nella situazione migliore per porsi il problema. Sta già sorvolando l'oceano, oltrepassate le colonne d'Ercole. L'isola dove l'ippogrifo atterra è certamente incantata. Piante e animali vi si muovono con tanta grazia che pare di inoltrarsi nel ricamo di un arazzo. Non c'è da meravigliarsi se il primo essere parlante in cui Ruggero si imbatte non ha forma umana, ma è una pianta di mirto. Benché Ruggero sia d'animo costante, né cangiato abbia il solito colore, io non gli voglio creder che tremante non abbia dentro più che foglia il core. Lasciato avea di gran spazio distante tutta l'Europa, ed era uscito fuore per molto spazio il segno che prescritto avea già a naviganti Ercole invitto. Quello ipogrifo, grande e strano augello, lo porta via con tal prestezza d'ale che lasceria di lungo tratto quello celer ministro del fulmine australe. Non va per l'aria altro animal sì snello che di velocità gli fosse uguale. Credo che appena il tuono e la saetta venga in terra dal ciel con maggior fretta. Poi che l'augel trascorso ebbe gran spazio, per linea dritta e senza mai piegarsi, con larghe ruote, omai dell'aria sazio, cominciò sopra una isola a calarsi, pari a quella ove, dopo lungo strazio, far del suo amante lungo a lui celarsi, la vergine aretusa passò in vano, di sotto il mar, per camin cieco e strano. Non vide né il più bel, né il più giocondo, da tutta l'aria ove le penne stese, né se tutto cercato avesse il mondo, vedria di questo il più gentil paese. Ove, dopo un girarsi di gran tondo, con rugger seco il grande augel discese. Culte pianure e delicati colli, chiare acque, ombrose ripe e prati molli, vaghi boschetti di soavi allori, di palme ed amenissime mortelle, cedri e taranci che avean frutti e fiori contesti in varie forme e tutte belle, facean riparo ai fervidi calori dei giorni estivi con lor spesse ombrelle, e tra quei rami con sicuri voli cantando se ne giano i rosignuoli. Tra le purpure e rose e i bianchi gigli, che tepida aura freschi ogni ora serba, sicuri si vedean lepri e conigli, e cervi con la fronte alta e superba, senza temer che alcun li uccida o pigli, pascano o stiansi rominando l'erba. Saltano i daini e i capri snelli e destri, che sono in copia in quei luoghi campestri. Come sì presso è l'ipogrifo a terra, che esserne può men periglioso il salto, Rugger con fretta dell'arcion si sferra e si ritrova in sull'erboso smalto. Tuttavia in man le redine si serra, che non vuol che il destrier più vada in alto, poi lo lega nel margine marino a un verde mirto, in mezzo un lauro e un pino. E quivi, appresso ove sorgea una fonte cinta di cedri e di feconde palme, pose lo scudo e l'elmo dalla fronte si trasse e disarmossi ambe le palme. Ed ora alla marina ed ora al monte volgea la faccia all'aure fresche e talme, che l'alte cime con mormorii lieti fan tremolar dei faggi e degli abeti. Bagna talor nella chiara onda e fresca l'asciute labbra, e con le man di guazza a ciò che delle vene il calore esca, che gli ha acceso il portar della corazza. Né maraviglia è già che ella gli incresca, che non è stato un far vedersi in piazza, ma senza mai posar, d'arme guernito, 3000 miglia ogni or correndo e reito. Quivi stando, il destrier ch'avea lasciato fra le più dense frasche alla fresca ombra, per fuggirsi rivolta, spaventato, di non so che dentro al bosco ad ombra, e fa crollar sì il mirto ove è legato, che delle fronde intorno il piè gli ingombra, crollar fa il mirto e fa cader la foglia, né succede però che se ne scioglia. Come ceppo talor, che le medolle rare e vuote abbia e posto al fuoco sia, poiché per gran calor quell'aria molle resta consunta che in mezzo l'empia dentro vi suona e con strepito bolle, tanto che quel furor trovi la via, così murmura e stride e si coruccia quel mirto offeso e al fine apre la buccia. Onde con mesta e flebil voce uscio e spedita e chiarissima favella e disse: «Se tu sei cortese e pio, come dimostri alla presenza bella, lieva questo animal dall'arbor mio, basti che il mio mal proprio mi flagella, senza altra pena, senza altro dolore, che a tormentarmi ancor venga di fuore». Al primo suon di quella voce torse Ruggero il viso e subito levosse, e poi ch'uscir dall'arbore s'accorse, stupefatto restò più che mai fosse. A levarne il destrier subito corse, e con le guance di vergogna rosse, «Qual che tu sii, perdonami», dicea, «o spirito umano o boschereccia dea. Il non aver saputo che s'asconda sotto ruvida scorza umano spirito m'ha lasciato turbar la bella fronda e far ingiuria al tuo vivace mirto. Ma non restar però che non risponda chi tu ti sia, chi in corpo orrido e tirto, con voce irrazionale anima vivi, se da grandine il ciel sempre ti schivi. E s'ora o mai potrò questo dispetto con alcun beneficio compensarte, per quella bella donna ti prometto, quella che di me tien la miglior parte, ch'io farò con parole e con effetto, ch'avrai giusta cagion di me lodarte. Come Ruggiero al suo parlar fin diede, tremò quel mirto dalla cima al piede. Poi si vide sudar su per la scorza, come il legno dal bosco allora tratto, che del fuoco venir sente la forza, poscia ch'invano ogni ripargli ha fatto. E cominciò: tua cortesia mi sforza a discoprirti in un medesimo tratto ch'io fossi prima e chi converso maggia in questo mirto in sulla mena spiaggia. Il nome mio fu Astolfo, e paladino era di Francia, assai temuto in guerra. D'Orlando e di Rinaldo era cugino, la cui fama alcun termine non serra, e si spettava a me tutto il domino, dopo il mio padre Oton dell'Inghilterra. Leggiadro e bel fui sì, che di me accesi più d'una donna, e alfin me solo offesi. Il mondo fatato è sempre per Ruggero una forza estranea che egli subisce e in cui s'aggira spaesato. Per Astolfo invece è sempre un mondo congeniale in cui egli si immedesima subito, ora dominandolo con oggetti e mezzi magici, ora restandone prigioniero, come qui, trasformato in mirto dalla fata Alcina. Ecco che racconta a Ruggero la sua metamorfosi. Le isole dell'Oceano Indiano sono piene di fate e di incantesimi. Astolfo, giunto laggiù dopo molte avventure e traversie, stava andando per la spiaggia con altri cavalieri quando era incappato nelle reti invisibili della fata Alcina, sorella di un'altra fata assai potente, la famosa Morgana. Pescatrice senza reti e senza amo, Alcina faceva affiorare dalle onde ogni sorta di pesci e perfino balene grosse come isolette o bastimenti. Su di una balena, isoletta, bastimento, Astolfo viene facilmente rapito dalla fata. Ritornando io da quelle isole estreme che da Levante il mare indico lava, dove Rinaldo e talcun altri insieme meco fur chiusi in parte oscura e cava, e tonde liberate le supreme forze n'avean del cavalier di Brava, ver ponente io venia lungo la sabbia che del settentrion sente la rabbia. E come la via nostra il duro e fello destin ci trasse, uscimmo una mattina sopra la bella spiaggia ove un castello siede sul mar della possente Alcina. Trovammo lei ch'uscita era di quello e stava sola in ripa alla marina, e senza rete e senza amo traea tutti i pesci al lito che volea. Veloci vi correvano i delfini, vi venia a bocca aperta il grosso tonno, i capidogli coi vecchi marini vengon turbati dal lor pigro sonno. Muli, salpe, salmoni e coracini nuotano a schiere in più fretta che ponno. Pistrici, fisiteri, orche e balene escon del mar con mostruose schiene. Veggiamo una balena, la maggiore che mai per tutto il mar veduta fosse. 11 passi e più dimostra fuore dell'onde salse le spallacce grosse. Caschiamo tutti insieme in uno errore, perché era ferma e che mai non si scosse. Ch'ella sia un'isoletta, ci credemo, così distante all'un dall'altro estremo. Alcina i pesci uscir facea dell'acque, con semplici parole e puri incanti. Con la fata Morgana Alcina nacque, io non so dir s'a un parto o dopo o inanti. Guardommi Alcina, e subito le piacque l'aspetto mio come mostrò ai sembianti. E pensò con astuzia e con ingegno, tormi ai compagni e riuscì il disegno. Ci venne incontra con allegra faccia, con modi graziosi e riverenti, e disse: cavalier, quando vi piaccia, faroggi meco i vostri alloggiamenti, io vi farò veder nella mia caccia di tutti i pesci sorti differenti, chi scaglioso, chi molle e chi col pelo, e saran più che non a stelle il cielo. E volendo vedere una sirena che col suo dolce canto acheta il mare, passiam di qui fin su quell'altra arena,

A ciò ch'alcuno amante per te sia, converso in pietra o in onda, o fatto tale, avrai d'Alcina scettro e signoria, e sarai lieto sopra ogni mortale, ma certo sì di giunger tosto al passo, d'entrar o in fiera, o in fonte, o in legno, o in sasso. Io te n'ho dato volentieri avviso, non ch'io mi creda che debbia giovarte, pur meglio fia che non vadi improvviso, e dei costumi suoi tu sappia parte, che forse, come è differente il viso, è differente ancor l'ingegno e l'arte. Tu saprai forse riparare al danno, quel che saputo mill'altri non hanno. Ruggero intraprende la traversata dell'isola allegorica. Gli viene incontro una torma di personaggi mostruosi. È chiaro che sono i vizi capitali. Egli si affretta a dar battaglia e a sgominarli. Poi c'è una gigantessa con i lunghi denti. Deve essere l'avarizia. Ruggero sconfigge anche lei. Ed ecco che vede elevarsi le mura della splendida città d'Alcina. Questa deve essere un'allegoria del piacere, pensa Ruggero, e lo spirito bellicoso cede il campo a una più benigna inclinazione. Alquanto malagevole e t'aspretta, per mezzo un bosco presero la via, che oltre che sassosa fosse e stretta, quasi su dritta alla collina gia. Ma poi che furo ascesi in sulla vetta, usciro in spaziosa prateria, dove il più bel palazzo e il più giocondo vider che mai fosse veduto al mondo. La bella Alcina venne un pezzo in ante verso Ruggier, fuor delle prime porte, e lo raccolse in signoril sembiante, in mezzo bella e tonorata corte. Da tutti gli altri tanto onore e tante riverenzie fur fatte al guerrier forte, che non ne potrian far più se fra loro fosse Dio sceso dal superno coro. Non tanto il bel palazzo era eccellente perché vincesse ogni altro di ricchezza, quanto c'avea la più piacevol gente che fosse al mondo e di più gentilezza. Poco era l'un dall'altro differente, e di fiorita etade e di bellezza. Sola di tutti Alcina era più bella, siccome è bello il sol più d'ogni stella. Di persona era tanto ben formata quanto me finger san pittori industri, con bionda chioma lunga e tannodata, oro non è che più risplenda e illustri. Spargeasi per la guancia delicata misto color di rose e di ligustri, di terso avorio era la fronte lieta, che lo spazio finia con giusta meta. Sotto due negri e sottilissimi archi son due negri occhi, anzi due chiari soli, pietosi a riguardare, a mover parchi, intorno cui par ch'amor scherzi e voli, e chindi tutta la faretra scarchi, e che visibilmente i cori involi. Quindi il naso per mezzo il viso scende, che non trova l'invidia ove le mende. Sotto quel sta, quasi fra due vallette, la bocca sparsa di natio cinabro. Quivi due filze son di perle elette, che chiude ed apre un bello e dolce labbro. Quindi escon le cortesi parolette, da render molle ogni cor rozzo e scabro. Quivi si forma quel suave riso, capre a sua posta in terra il paradiso. Bianca nieve è il bel collo, e il petto latte. Il collo è tondo, il petto colmo e largo. Due pome acerbe e pur d'avorio fatte vengono e van come onda al primo margo, quando piacevole aura il mar combatte. Non potria l'altre parti veder argo, ben si può giudicar che corrisponde a quel che par di fuor quel che s'asconde. Mostran le braccia sua misura giusta, e la candida man spesso si vede lunghetta alquanto e di larghezza angusta, dove né nodo appar né vena escede. Si vede al fin della persona augusta il breve, asciutto e ritondetto piede. Gli angelici sembianti nati in cielo non si ponno celar sotto alcun velo. Avea in ogni sua parte un laccio teso, o parli, o rida, o canti, o passo muova. Né maraviglia esser Ruggier né preso, poiché tanto benigna se la trova. Quel che di lei già avea dal mirto inteso, com'è perfida e ria, poco gli giova. Che inganno o tradimento non gli è avviso che possa star con sì soave riso. Anzi, pur creder vuol che da costei fosse converso Astolfo in sulla rena per li suoi portamenti ingrati e rei, e sia degno di questa e di più pena. E tutto quel cudito avea di lei stima esser falso, e che vendetta mena, e mena astio e t'invidia quel dolente a lei biasmare, e che del tutto mente. La bella donna che cotanto amava, novellamente gli è dal cor partita, che per incanto Alcina gli lo lava d'ogni antica amorosa sua ferita, e di sé sola e del suo amor lo grava, e in quello essa riman sola scolpita, sì che scusare il buon Ruggier si deve se si mostrò quivi inconstante e lieve. A quella mensa citare, arpe, lire e diversi altri dilettevol suoni faceano intorno l'aria tintinire d'armonia dolce e di concenti buoni. Non vi mancava chi, cantando, dire d'amor sapesse gaudi e passioni, o con invenzioni e poesie rappresentasse grate fantasie. Qual mensa trionfante e suntuosa, di qual si voglia successor di Nino, o qual mai tanto celebre e famosa di Cleopatra al vincitor latino, potria questa esser par che l'amorosa fata avea posta innanzi al paladino. Tal non credio che s'apparecchi dove ministra Ganimede al sommo Giove. Tolte che fur le mense e le vivande, facean sedendo in cerchio un giuoco lieto, che nell'orecchio l'un l'altro domande, come più piace lor, qualche secreto, il che agli amanti fu commodo grande di scoprir l'amor lor senza divieto, e furon lor conclusioni estreme di ritrovarsi quella notte insieme. Finir quel giuoco tosto e molto innanzi, che non solea là dentro esser costume, con torchi allora i paggi entrati innanzi le tenebre cacciar con molto lume. Tra bella compagnia dietro e dinanzi andò Ruggiero a ritrovar le piume in una adorna e fresca cameretta per la miglior di tutte l'altre eletta. E poi che di confetti e di buon vini di nuovo fatti fur debiti inviti e partir gli altri riverenti e chini e dalle stanze lor tutti soniti, Ruggiero entrò ne profumati lini che pareano di man d'Aracne usciti, tenendo tuttavia l'orecchie attente s'ancor venir la bella donna sente. Ad ogni piccol moto che egli udiva, sperando che fosse ella, il capo alzava. Sentir credeasi e spesso non sentiva, poi del suo errore accorto sospirava. Talvolta uscia del letto e l'uscio apriva, guatava fuori e nulla vi trovava, e maledì ben mille volte l'ora che facea oltrepassar tanta dimora. Tra sé dicea sovente: or si parte ella, e cominciava a noverare i passi che esser potean dalla sua stanza a quella donde aspettando sta che Alcina passi, e questi et altri prima che la bella donna vi sia vani disegni fassi. Teme di qualche impedimento spesso che fra il frutto e la man non gli sia messo. Alcina poi che a preziosi odori dopo gran spazio pose alcuna meta, venuto il tempo che più non dimori, ormai che in casa era ogni cosa cheta, della camera sua sola uscì fuori, e tacita n'andò per via secreta, dove a Ruggiero avea timore e speme, gran pezzo intorno al cor pugnato insieme. Come si vide il successor d'Astolfo, sopra apparir quelle ridenti stelle, come abbia nelle vene acceso zolfo, non par che capir possa nella pelle. Orsino agli occhi ben nuota nel golfo delle delizie e delle cose belle, salta del letto e in braccio la raccoglie, né può tanto aspettar che ella si spoglie, benché né gonna né faldiglia avesse, che venne a volta in un legger zendado che sopra una camicia ella si messe bianca e sottil nel più eccellente grado. Come Ruggiero abbracciò lei, gli cesse il manto e restò il vel sottile e rado che non copria dinanzi né di dietro, più che le rose o i gigli, un chiaro vetro. Non così strettamente edera preme pianta ove intorno a barbicata sabbia, come si stringon li due amanti insieme, cogliendo dello spirito in su le labbia, suave fior, qual non produce seme indo o sabeo nell'odorata sabbia. Del gran piacer ch'avean lor dicer tocca, che spesso avean più d'una lingua in bocca. Queste cose là dentro eran secrete, o seppur non secrete, almen taciute, che raro fute nelle labbra chete biasmo ad alcun, ma ben spesso virtute. Tutte proferte ed accoglienze liete fanno a Ruggier quelle persone astute. Ognun lo riverisce e se gli inchina, che così vuol l'innamorata Alcina. Non è diletto alcun che di fuor reste, che tutti son nell'amorosa stanza. E due e tre volte il dì mutano veste, fatte ora ad una, ora ad un'altra usanza. Spesso in conviti e sempre stanno in feste, in giostre, in lotte, in scene, in bagno, in danza. Or presso ai fonti, all'ombra dei poggetti, leggon d'antichi gli amorosi detti. Or per l'ombrose valli e lieti colli vanno cacciando le paurose lepri. Or con sagaci cani i fagian folli con strepito uscir fan di stoppie e vepri. Ora tordi lacciuoli, or veschi molli tendon fra gli odoriferi ginepri. Or con ami innescati ed or con reti turbano a pesci grati lor secreti. Ruggero ha dimenticato che si trova in mezzo a figure allegoriche. Le ore notturne passate a tendere l'orecchio, a contare con l'immaginazione i passi della Magliarda, ad aspettare lo schiudersi della porta, sono bastate a convincerlo che il poema che egli vive è fatto non di fredda pedagogia, ma di trepidante amor di vita. A rimettere in moto la macchina allegorica per farle sgombrare definitivamente il campo sarà Bradamante. La guerriera innamorata e volitiva non si dà pace finché non ha mandato la maga Melissa a liberare Ruggero. Con l'anello magico al dito, Ruggero vede in Alcina non più la Magliarda, ma una vecchia spelacchiata, e si decide a scappare. Sfugge all'inseguimento di altri oscuri personaggi simbolici, passa nel regno di Logistilla, dove trova invece figure allegoriche di tutte le virtù. Per fortuna ritrova anche Astolfo, liberato e restituito alla forma umana. Insieme studiano il modo di ritornare ai campi di battaglia dell'epopea, sonanti d'armi e di cavalli. Abbiamo trasmesso la quinta puntata dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, raccontato da Italo Calvino.